versione di Oscar, di Oscar Giannino. This is the end. 24, sono le 16:30 primi e 7 secondi, c'è un problema io di mancato ritorno. Ecco, adesso finalmente funziona il ritorno in cuffia. Siamo qui in diretta dai studi di Milano di Radio 24 questo venerdì 23 di dicembre e l'argomento della puntata di oggi, come già avevo preavvisato ieri, stiamo facendo un conte da belve a fette perché ieri ci siamo occupati del decreto che era in arrivo su MPS con Mario Seminario e ieri sera, nella tarda serata, abbiamo avuto il decreto arrivato per lo scudo statale, l'attivazione dello scudo statale. Che era stato autorizzato dal Parlamento, lo sapete, con 20 miliardi di euro di debito pubblico aggiuntivo per partecipare alla ricapitalizzazione bancaria e poi ce ne sono 80 per le liquidità, le garanzie di liquidità alle banche. E è arrivato verso le 11 il testo di ieri sera del comunicato in cui si spiega in cosa consiste questo intervento, perché il decreto è in generale di attivazione del fondo e quindi rinvia per le banche successive nelle quali si interverrà a decreti ministeriali, anche per il Monte Paschi, a dire la verità. Con ogni probabilità si dovrà procedere a un decreto ministeriale per entrare nei particolari, pur tuttavia il decreto dispone alcuni principi generali per l'intervento del Monte Paschi. Allora, il nostro criterio oggi pomeriggio, insieme all'ospite, anche lui della Belva, quindi Carlo Alberto Cannavale Maffei, che è qui in studio. Buonasera a tutti. È quello di tentare di farvi capire che forse è meglio che il governo chiarisca quello che intanto ha detto nel comunicato, perché ci sono dei rischi molto forti e gli osservatori internazionali, se andate a vedere Bloomberg e Reuters, già hanno storto abbondantemente il muso. Allora, non solo loro, perché per esempio il sindaco di Arezzo ha già dichiarato di scrivere al Presidente della Repubblica dicendo intollerabile i due pesi e due misure che si sono utilizzati per le quattro banche risolte nel novembre 2015 e quindi ovviamente sta parlando di Banca Etruria, rispetto invece al meccanismo di intervento molto più tutelante che viene assunto per il Monte Paschi. È vero che il sindaco di Arezzo dimostra di non capire molto bene la differenza tra banche in risoluzione come erano quelle quattro di novembre, cioè erano banche per cui erano in default, mentre invece il Monte Paschi non è nella fase della risoluzione, è nella fase della recovery perché produce ancora reddito operativo. Detto tutto questo, però, gli osservatori internazionali finanziari e di informazione fanno notare che il meccanismo adottato sembra proprio voler aggirare e non ottemperare il principio posto dalla direttiva europea anche nella fase della recovery, e cioè il famoso, ve ne abbiamo parlato mille volte, burden sharing. Allora, io proporrei a Carlo Alberto di fare come segue. Io ti leggo testualmente quello che c'è nel comunicato e poi tu lo spieghi insieme, e lo commentiamo. Oscar. Allora, c'è scritto questo. Il decreto legge, sto leggendo il comunicato, il decreto legge contempla la possibilità che la banca interessata da una ricapitalizzazione precauzionale, si chiama così quando è in fase di recovery, appunto, da parte dello Stato, che comporta la conversione delle obbligazioni subordinate in azioni, offra obbligazioni non subordinate in cambio delle azioni frutto della conversione. Il Tesoro può acquistare tali azioni e al termine della procedura di compensazione, orientata a tutelare i risparmiatori, coloro che inizialmente detengono obbligazioni subordinate si troverebbero quindi a possedere obbligazioni non subordinate. Già questo probabilmente in una dei lavori non è chiaro, ma andiamo avanti. Lo schema di compensazione come funziona in sintesi, scrive il governo. Primo, la banca, Monte Paschi, propone di scambiare le azioni frutto della conversione delle obbligazioni subordinate con obbligazioni non subordinate di nuova emissione. Punto 2. Il Tesoro acquista le azioni scambiate con le obbligazioni non subordinate di nuova emissione e il riacquisto delle azioni frutto della conversione delle obbligazioni subordinate allo scopo di prevenire liti giudiziarie connesse alla commercializzazione delle obbligazioni stesse. Nello stesso testo si precisa: la conversione delle obbligazioni Tier 1, trattino, sottoscritte per lo più da clientela istituzionale, trattino, avverrà a un valore corrispondente al 75% del valore nominale. Invece, la conversione delle obbligazioni Tier 2, sottoscritte per la più da clientela retail, avverrà a un valore corrispondente al 100% del valore nominale. Ed è proprio qui che si incardina il problema, Carlo Alberto. Sì. Cominciamo con un punto. La ricapitalizzazione precauzionale è soggetta comunque a delle condizioni, cioè la banca in oggetto deve essere una banca sistemica o comunque l'intervento deve essere fatto a fronte di un rischio di instabilità o di grave danno all'economia, primo punto. Ora, per Montepaschi tutto questo è ragionevole, per altre banche ne parlerei con grande attenzione, primo punto, e giustifichiamo il quadro, quindi già bisogna capire se quanto previsto dal governo si applica a Montepaschi, e poi tutto da vedere cosa succede con altre banche. Il fatto che abbiano allocato 20 miliardi presuppone che abbiano in mente di intervenire su altre banche, sì. Ce ne sarebbe una bella grossa e particolarmente sistemica indiscutibilmente, ma speriamo che non abbia bisogno dell'aiuto dello Stato, no? Quindi prima premessa, seconda premessa: il principio del burden sharing, scusa se lo pronuncio correttamente, perché burden e non è burden, te lo faccio notare perché è importante che impariamo un pochino l'inglese qui, ovvero a leggere le norme europee. Il principio del burden sharing, lo ha ribadito un commento oggi dell'autorità europea, prevede che vengano poste a carico di azionisti e obbligazionisti subordinati adeguate perdite, il concetto di, altrimenti non c'è burden, se non ci sono perdite in qualche maniera sul valore nominale anche degli obbligazionisti subordinati non si può parlare di burden sharing, e quindi una conversione al 100% non rappresenta una condivisione dell'onere, perché non c'è onere, anzi è quasi una promozione, perché se ho capito bene qui, aiutami anche tu Oscar, addirittura c'è un aumento della seniority, cioè passiamo dalla subordinata, sì, esatto, che è strumento di capitale, quindi è comunque sempre soggetta a rischi di conversione, anche futuri, nel caso in cui la banca non dovesse poi trovare un suo equilibrio e quindi andare ulteriormente in un piano di recovery o di risoluzione, addirittura acquistano seniority superiori, cioè finiscono a essere bond, cioè obbligazioni bancarie, diciamo, regolari, quindi... È così. E questo, dal mio punto di vista, è abbastanza incomprensibile, cioè già non capisco non penalizzarle, addirittura promuoverle, mi sembra francamente incomprensibile, quindi secondo me non passerà facilmente questa cosa. Ultimo punto, la distinzione fra categorie di detentori istituzionali rispetto a retail. Ora, io capisco convertire o non convertire alcune tipologie di emissioni per mille ragioni, ma distinguere la conversione in base al titolare, ecco, questo francamente mi sembra non diciamo coerente con i principi, diciamo, di rispetto delle seniority di base, cioè che è il titolo. Però, non è detto, però attenzione Carlo Alberto, qui l'intenzione è quella di distinguere le subordinate per tipologia di titolare, ma nella realtà il criterio che si individua è solo la tipologia, e a questo punto va molto chiarito secondo me perché contraddice lo stesso governo, solo la tipologia di subordinata, perché loro dicono la tier 1 ce l'hanno gli istituzionali, la tier 2 ce l'hanno invece i retail, e non è vero, non esatto. È vero, facciamo un esempio esatto. Concreto, facciamo un esempio concreto, e l'ha fatto Mario Seminerio, in questo leggete il suo blog su fastidio.net, Generali, che aveva convertito dei 2,4 miliardi di euro, che era stato un buon risultato visti la situazione periclitante della banca, che erano oggetto di conversione di obbligazioni, di quei 2 miliardi e 4, circa 400 milioni sono convertiti, erano stati convertiti da Generali. Generali, quei 400 milioni di obbligazioni subordinate sono, come dice il governo, tier 1 o tier 2? La risposta è la stragrande maggioranza sono probabilmente quelli che il governo identifica invece come in mano ai retail. Perché? Perché sono obbligazioni che sono asservite alle polizze sottoscritte dai clienti retail di Generali, ma fanno capo a Generali, che è un investitore istituzionale. Noi avevamo già due criteri, questo per spiegarvi il pasticcio da chiarire, cari ascoltatori, avevamo già due definizioni nel nostro ordinamento di chi è un risparmiatore retail con obbligazioni subordinate. Ce n'è una, quella della MIFID, generale, che spiega che cos'è il risparmiatore ordinario invece rispetto all'investitore istituzionale. Quando abbiamo risolto le quattro banche a novembre scorso, ne abbiamo introdotta un'altra, perché per il ristoro degli obbligazionisti subordinati delle quattro banche abbiamo identificato una duplice strada, una per reddito e patrimonio, sì. E un'altra invece, se volete, la fate l'arbitrato e dovrete dimostrare il mis-selling, cioè di essere stati raggirati. Adesso ne introduciamo una terza, che è per tipologia di obbligazione subordinata, ma non è affatto vero che una in mano solo agli istituzionali e un'altra solo ai retailers. Quindi ci saranno, se non viene chiarito, alcuni investitori istituzionali come Generali che saranno convertiti al 100%, esatto. Mentre altri investitori istituzionali convertiti al 75%. E la stessa cosa può succedere ai detentori retail, indipendentemente da patrimonio da reddito. Siccome qua una volta... oltretutto soprattutto non c'è scritto se chiunque, un retailer, un qualunque trader, risparmiatore privato, ha comprato subordinate al 50 sul mercato secondario rispetto al 100 di nominale, siccome qua non si esclude di farlo, qui sembra capire che glielo convertiamo a 100, quindi ci guadagna. Sì, non solo glielo convertiamo a 100, ma addirittura gli diamo una classe, esatto, di titoli meno rischiosa. Meno rischiosa e di fatto esclusa da ulteriori rischi successivi, se non in caso di bailout. E soprattutto, in assenza di chiarezza di questo, torno al punto iniziale di Carlo Alberto. Se questo non è chiarito, si sta aggirando la normativa europea, quindi se non si rispetta la normativa europea sul burden sharing, non burden sharing, scusami, grazie, hai fatto benissimo, a quel punto non si può giustificare l'intervento dello Stato. Allora, evidentemente il governo ritiene che la Commissione europea, che ha la competenza per gli aiuti di Stato, e la vigilanza europea, che ha la competenza per il rispetto della direttiva europea, avranno di meglio da fare che mettersi a contestare l'Italia su queste cose. Ma per quello che c'è scritto nel comunicato, per quello io mi auguro che evitiamo altri pasticci dopo che per anni abbiamo raccontato frottole sul sistema bancario italiano, ma se non si chiarisce questo, c'è un problema grande come una casa. Infatti Bloomberg, l'hai rilanciato tu su Twitter, sì, e io il rilanciato Reuters, scrivono, cosa scrivono? Ma scrivo per esempio che la media dei detentori delle subordinate, delle obbligazioni bancarie italiane ha una ricchezza finanziaria, cioè di escluso il, diciamo, il patrimonio immobiliare, di circa quadruplo rispetto all'italiano medio. Quindi di fatto, adesso, statisticamente, noi andremo a usare i soldi di tutti e quindi anche dei poveri per rimborsare chi mediamente ha il quadruplo di ricchezza finanziaria rispetto alla media nazionale. Ora, se questo è giustizia, francamente io non ne capisco la ragione. Inoltre, appunto, l'introduzione di questo terzo criterio, fammi dire, completamente aprioristico, quindi non legato al merito, al processo, semplicemente così, sulla base di un criterio ex ante. Tra l'altro il governo dice per evitare future controversie giudiziarie. A parte che un'escusatio non petita, perfetta. No, ma non le evitano, perché esatto, altri istituzionali diranno perché i generali... Ma poi il governo come fa a dire... Chi fa le leggi, sto cavolo di paese? Come fa il governo... No, però non ti sfuggirà che siccome il governo controllerà MPS, dice siccome controllo io non voglio le cause. Ah, questo interessante, è il punto. Mi piacerebbe, so, mi piacerebbe fare la stessa cosa quando siedo in Consiglio di Stato. Caro mio, il governo è fatto così. Quindi io penso, sinceramente, i segnali che arrivano da Bruxelles e da Francoforte sono abbastanza chiari. Fateci leggere questa roba. Io l'ho commentato a un giornalista del Financial Times, another Italian job. Italian job è un termine inglese per dire, insomma, una piccola pastetta all'italiana, perché finché non capiamo i dettagli, Oscar, sinceramente non è facile. Sono questa d'accordo. Ulteriore complicazione sulla selezione ex ante delle categorie di titoli non ci facilita, e ancora una volta, fammi dire, il legislatore italiano vuol fare le pulci alla normativa europea invece di applicarla, sapendo in realtà che non può permettersi di decidere da solo, questo, ma tutto questo è soggetto all'approvazione e alla verifica della BCE. Su questo punto, caro Alberto, lo sappiamo, cari ascoltatori, prima che me lo ricordiate, lo sappiamo che noi siamo in minoranza. Poi viene Focus Economia con Sebastiano Barisoni, che la pensa all'opposto rispetto a noi, dice che la BRD è inficiata dall'essere un favore ai tedeschi ed è un problema per l'Italia, eccetera eccetera. Però detto questo, però sull'opinione sulle leggi è legittima, però la legge è in vigore, la e legge va è in vigore. Siccome il rispetto alla legge non dipende dall'opinione del governo italiano ma dall'autorizzazione dell'Unione Europea, sia la Commissione che la BCE, mi dispiace, ma questa è la legge, al di là delle opinioni. Anch'io posso avere da ridire, caro Oscar, su il modo in cui è scritta la BRRD, il modo in cui vi è stata spiegata. Niente è perfetto. Tutti noi abbiamo molte critiche da fare e sono giuste e doverose, ma le leggi prima di tutto si rispettano e dopodiché si possono comunque criticare e migliorare. La verità, signori, è che siamo di nuovo nella grande incertezza. Quello che abbiamo discusso da questi microfoni, quanto tempo fa? 2 anni fa? 1 anno fa? Nel dire, signori, se proprio volete segnalare il problema, intervenite subito, fate un'allocazione di capitale che dia subito al mercato il segnale del rispetto della legge, della volontà dello Stato di addivenire rapidamente a una ricapitalizzazione delle banche in difficoltà, almeno il mercato prende le misure. Farlo l'antivigilia di Natale con decreti non comprensibili, non chiari, senza i dettagli, è un segnale di nuovo dell'improvvisazione e della inaffidabilità dei nostri legislatori. Mi spieghi una cosa, qui è un'opinione che ti chiedo, non un'interpretazione su fatti e norme. Secondo te, perché dopo che nel 2012, ed era evidente il perché, all'epoca esplosa la cosa Montepaschi, il governo tecnico all'epoca preferì quando non c'era la BRD e ogni Stato in quegli anni, nel post 2011, interveniva con criteri propri, si poteva azzerare la fondazione che controllava, cioè PD, la banca, entrare, pulire i conti della banca, ricedere rapidamente al mercato. Metodo britannico, per intenderci, come si è fatto per Lloyds e che è compiuta come vendita già 2 anni dopo, come non è ancora compiuta, ma l'intenzione è quella, Royal Bank of Scotland. Detto questo, non si volle fare, capì il perché, perché significava sparare al cuore del PD nel 2012. Uno, ok. Dopodiché si bruciano 10 miliardi di aumenti di capitale a Siena, perché questo è quello che è avvenuto, si bruciano manager di Siena. Dopodiché a luglio arriva il risultato dello stress test ed è evidente che bisogna fare il più presto possibile quello che si mette adesso a fare con questo decreto. Renzi non solo fa un'altra scelta, dice aspettiamo, vabbè, il referendum, ma fa una scommessa, questa è la mia domanda, su un aumento solo di mercato, con soggetti di mercato, incardinato su una discutibilissima maxi fees a JP Morgan, e i giornali italiani scrivono per mesi che c'è la fila dei fondi internazionali per partecipare a questo aumento di capitale. Chiunque eccepisca, come ho fatto io e pochi altri, viene trattato come un cretino, alla fine nessuno si presenta. Ma perché, secondo te, la scommessa di quell'aumento solo di capitale? Perché non possiamo pensare sia una follia. Che ragionamento c'era dietro, secondo te? Evidentemente c'era la volontà di offrire qualche contropartita a qualche fondo sovrano. Sai, quando arrivano i fondi sovrani nelle operazioni di salvataggio, fammi essere sempre un po' sospettoso, no? Fammi sempre pensare al fatto che il mercato è un'altra cosa, mio Dio. Quando due governi si mettono d'accordo, non stiamo parlando di mercato, stiamo parlando di qualcosa che è fuori dal mercato. Molto d'accordo. Quindi, primo punto, questi fantomatici fondi sovrani del Golfo, mi fate dire i nomi perché mi viene da tossire, se posso dire, no? non si sono mai manifestati o si sono ritirati in buon ordine, vista la scomparsa poi dell'interlocutore. Quindi in primis c'era probabilmente una scommessa di tipo politico, di poter mettere sul tavolo probabilmente contropartite che in presenza del famoso investitore anchor, cioè investitore di riferimento, forse avrebbe cambiato le condizioni. Ma l'assenza di questa promessa purtroppo ha fatto dileguare. In ogni caso c'era, scusami, una interferenza inaccettabile, sistematica del governo su quella che è un'azienda quotata e che, scusami, risponde al suo regolatore e non al governo nazionale. E invece il governo ha sistematicamente voluto interferire dando consigli di investimento. Sai, capisci, finché Silvione diceva di investire in Mediaset, posso anche capirlo, almeno conosceva. Però quando a gennaio Renzi ha detto MPS è risanata, è un affare, testuali parole. Non si fanno questo, ma indipendentemente dal merito, non si fanno. Quindi purtroppo è una scia di interventi non legittimi, evidentemente strabordanti della politica, che una volta non ha mai ammesso che le banche non le appartengono più e che può intervenire soltanto nei limiti e nelle condizioni e alle regole della normativa europea. Ecco, questa cosa non è ancora stata interiorizzata e quest'ultimo decreto o bozza di decreto è ancora il segnale che a Roma non hanno capito, caro Oscar. Ah, vedo che però ci sono alcuni che dissentono, per esempio volevi fare il politico, hai fatto una figura di merda e fai ancora il primo della classe e vai all'ospizio dei giornalisti. L'altro pirla che fa il professorino che è lì con te porta anche lui al ricordo dei giornalisti. Vabbè, abbiamo qualcuno che rappresenta evidentemente punti di vista diversi. Non capisco che dovremmo andare al ricovero, mi sembra che stiamo ancora in ottima forma. Detto tutto questo, allora, infatti alcuni si osservano, ma perché al fondo del Qatar, al netto di quello che state dicendo su possibili scambi tra governi, perché avrebbe dovuto partecipare di corso dopo 3 aumenti di capitale bruciati in 3 anni? E questa è una domanda, per esempio, abbastanza pertinente, secondo me. Sì, se posso dire, poi c'è un tema più generale del settore, ovvero nessuno investe in un business che non rende. Abbiamo già visto, anche nel caso di Unicredit, che è una banca con un perimetro molto ampio, il ritorno sul tangible asset, cioè il ritorno sul capitale vero che ci mettono gli azionisti, è inferiore, anche se di poco, al costo del capitale da qui al 2019. Okay. Lo commentavamo, se ti ricordi, sabato, sabato sì. Come si fa a chiedere soldi a qualcuno dicendogli che la remunerazione che gli stai promettendo è inferiore al costo che gli stai infliggendo? Ma non esiste, capisci? Quindi, il vero problema del piano industriale di MPS è esattamente questo qua. Quindi, al di là del salvataggio intrinseco, che se volete è un tema tema di patrimonializzazione. C'è un tema di economicità di gestione, di attrattività d'investimento e di ritorno e redditività, che è ineludibile e che ha a che fare, scusate, con tutta una serie di altri elementi del governo e della legislazione italiana: il ritardo, l'inefficacia delle norme, l'assenza dello stato di diritto, l'indisponibilità di dati digitali sulle imprese, che fammi dire anche questo, no? Abbiamo 360 miliardi di NPL cartacei, fondamentalmente intrattabili. Ecco, queste cose insistono pesantemente sul modo di fare banca. Noi abbiamo disperatamente bisogno di banche sane in questo paese, ma perché siano sane devono guadagnare, e perché guadagnino devono esserci condizioni diverse. Purtroppo non ci sono. Ultima osservazione prima del minuto di informazione stradale, poi torniamo su Giancarlo Alberto Canavale Maffè. I costi di aver rinviato gli interventi che erano necessari da anni ed evidenti da anni sono per tutto il sistema, per tutto il sistema bancario, che ha visto cadere il suo valore, a cominciare dalle banche più sane, come Intesa. Uno, due, per MPS non ci sono solo 10 miliardi di euro di capitale andato raccolto sul mercato e andato in fumo. Solo nel 2016, ve lo ricordo, MPS ha sommato circa 20 miliardi di euro di depositi in meno, e questo è sangue vivo in meno per la continuazione della banca. Torniamo tra un minuto. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in studio a parlare di MPS, che c'è con noi il professor Carlo Alberto Carnevale Maffè. Vi leggo intanto una dichiarazione uscita sulle agenzie del sindaco di Siena, Bruno Valentini, che dice: con il senno di poi è vero, sono persi almeno 6 mesi, tutto girava intorno al referendum. Sì, è un intervento tardivo, probabilmente è stata una scommessa azzardata. È ovvio che oramai non possiamo che ragionare con il senno di poi, questo relativo alla scommessa di un aumento di capitale solo di mercato, che erano le ultime considerazioni che stiamo facendo. Caro Alberto, abbiamo alcuni sms da ascoltatori che dicono: sono azionista, non ho capito cosa succede quando si riaprono le contrattazioni del titolo una volta avvenuta la conversione. Dipende da mille fattori, dipende da quanto verrà convertito dei subordinati, a che valore ovviamente, e dipenderà dalle decisioni che prenderà appunto l'Unione Europea sul livello di condivisione dell'onere. Allora è chiaro che gli azionisti sono in linea di seniority, cioè in linea di priorità rispetto alla perdita, sono i primi. Ora ci aspettiamo un azzeramento? Ma io direi magari di no, certamente, però una diluizione fortissima, questo sì, in termini di valore. Ciò detto, l'azionista MPS è stato sul lotto volante per almeno 3 o 4 anni. Adesso forse si accomoderà sul brucomela, ecco, se posso dire. Nel senso che, sì, si stabilizzerà un pochino, ma ovviamente a livelli molto bassi, purtroppo. Allora, Tommaso da Firenze vuole intervenire. Prego, Tommaso. Sì, buonasera. Buonasera. Complimenti. Innanzitutto seguo tutte le vostre trasmissioni, sempre molto interessanti. Una domanda volevo fare. Diciamo, io mi occupo, sono del mestiere, mi occupo di investimenti e volevo condividere con voi un rischio potenziale. Il trattare istituzionali e retail in modo differente non potrebbe aprire, diciamo, a una prospettiva come quella accaduta in Portogallo, che poi magari dopo l'andiamo a pagare tutto sullo spread, diciamo, il fatto di è una trattare. Domanda che per quello che mi Perfetto. Riguarda è tecnicamente, ovviamente gli ascoltatori ce li perdiamo, perché non so quanti di loro sappiano il pasticcio avvenuto in una banca portoghese in particolare, però è una domanda fondatissima. Sì, giusto Alberto. Un anno fa, pochi minuti prima dell'approvazione dell'entrata in vigore della BRRD, fu fatta un'operazione di, come dire, selective bailout, posso dire, cioè di bailout bail-in selettivo, e cioè furono accollate le perdite solo agli investitori istituzionali di un'istituzione finanziaria portoghese, così dando un segnale che fondamentalmente si discriminavano le seniority. È una violazione grave, secondo me, dei principi di legge. Ripetere, riproporla oggi in Italia dà un segnale molto importante agli investitori istituzionali: state lontani dalle obbligazioni finanziarie, dalle obbligazioni bancarie italiane e in generale da tutti gli strumenti sotto la legge italiana, perché potreste lasciarci le penne. È un bellissimo segnale, anche perché gli investitori istituzionali non sono le locuste, sono coloro che utilizzano i nostri risparmi dei pensionati, lavoratori, per distribuire il rischio. Quindi non è che sono i cattivi del mondo, sono fondi pensione, fondi di investimento, casse di di previdenza. Quindi discriminare nei loro confronti è un pessimo segnale, perché sono proprio quelle che invece dovranno continuare a comprarle le obbligazioni bancarie, altrimenti scompaiono definitivamente. Già retail ormai, scrissi un saggio proprio l'anno scorso, si intitolava Cronaca di una morte annunciata, e annunciava un anno fa l'impossibilità di fatto di emettere obbligazioni bancarie retail per la complessità del quadro patrimoniale bancario, ma anche perché è per il rischio che stava esposto. Crescendo. E invece le autorità italiane hanno tenuto gli occhi ben chiusi, e questi meccanismi di ristoro singolari con cui ci arrampichiamo anche sugli specchi, a mia personalissima opinione, di cui mi assumo la responsabilità, pronto all'ospizio se l'azienda mi vuole mandare via, servono a coprire la collusione con cui i regolatori italiani hanno consentito il più massiccio canale di funding a obbligazioni retail, quindi piazzati a un prezzo inferiore che agli investitori istituzionali, che sono per mestiere meglio capaci dei risparmiatori di valutare l'esposizione al rischio della banca, dell'emittente. Ecco, solo in Italia è stato praticato questa cosa qua, e per coprirne le responsabilità collusive, ecco che ci inventiamo questi meccanismi di ristoro. Comunque vi abbiamo spiegato che anche quello proposto stanotte è meglio che lo chiariscono, perché sì, sennò... esatto, anche perché in questi ultimi anni sono quasi raddoppiate le subordinate vendute alle famiglie, alcune banche hanno venduto il 90% delle proprie obbligazioni proprio al retail direttamente, e sono quelle più piccole, minori, che non avrebbero comunque avuto accesso al mercato degli istituzionali. Inoltre un dato importante: gli italiani hanno 10 volte le obbligazioni bancarie rispetto alla Francia e il triplo rispetto alla Germania, quindi il fenomeno merita sicuramente un dimensionamento diverso. Comunque adesso, vabbè, ci sono i giorni di Natale, vedremo quali chiarimenti emergeranno, e comunque ripeto, per l'intervento complessivo a Siena vedrete che ci sarà bisogno di un decreto ministeriale, come sarà per tutte le altre banche di cui non vengono dati neanche questi principi generali, perché bisognerà valutare caso per caso. Sapete che si parla per ipotesi delle due venete, delle quattro risolte che hanno continuato a perdere soldi, di piccole banche ma numerose che hanno dei guai seri. Io colloco il ritorno dello Stato azionista, da cui molti si aspettano che a questo punto diventi anche la guida del processo di integrazione bancaria. Mi limito a dirvi che per il momento nel comunicato del governo non c'è scritto né entro quanto uscire dal mercato, lo devono dire, io dico al massimo un anno e mezzo, non si dice stop ai dividendi, non si dice stop ai premi ai manager bancari. Tutto questo secondo me invece lo Stato lo deve fare quando interviene. Nel frattempo CDP, oltre che papparsi l'Ilva, abbiamo preso dal giornale stamattina che è pronta a mettere anche 2 miliardi e mezzo in Telecom Italia per conto della mano pubblica. Io mi auguro di no, ma questo è il modo in cui sta finendo questo 2016. Grazie caro Alberto Cannavale Maffè, ma anche domani c'è i conti da breve alle 10 e alle 12, quindi rimanete in ascolto.